domani tu non si ama mai. Lasci niente al caso, tu sorridi poi ti butti giù. È strano come ami tu, lo fai di più di me. E lo sento addosso io a rincorrerti, a dirti che ti amo come mi ami tu, ma tu di più, ma tu di più. E io qui in ombra e senza cielo, come un fiore in un cortile. Ma tu di più, ma tu di più, sempre più forte solo tu, non ci facciamo compagnia. Noi non ci facciamo compagnia, uccidite e fai volare il tempo. Io ti vengo dietro ma in affanno, stanco di doverti e di spiegarti che un amore vero sa tacere. Noi non abbiamo più la stessa ora, tu dormi e io passeggio in un cortile. Io in un cortile. Si ama mai, solo una volta in una vita, te ne convinci sempre più. Vorrei spiegarti invece che vorrei da te serenità. La parola amore non basta più, non è più qui, è quindi un vivere a metà. Ma tu di più, ma tu di più, sempre più forte solo tu, non ci facciamo compagnia. Oh, compagnia! Noi non ci facciamo compagnia, bruci vite e fai volare il tempo. Io ti vengo dietro ma in affanno, stanco di doverti e di spiegarti che un amore vero sa. Noi non abbiamo più la stessa ora, tu dormi io passeggio in un cortile.